mattino divento davanti alla televisione. Immagini in bianco e nero di uomini curvi dentro alle trincee, sommersi da gelo e neve, dalla pioggia greve in un campo sperduto vicino a Verdun. E tutto a un tratto un pensiero mi coglie al caldo e al sicuro, chissà per quale mistero di Dio dentro a quelle trincee non c'ero io. Mattino di pioggia davanti alla televisione, immagini a colori sfocati di uomini con il fucile che cadono uno ad uno con la faccia a terra sopra ad una spiaggia della Normandia. E tutto a un tratto un'idea mi avvolge e non va più via, chissà per quale mistero di Dio su quelle spiagge non ci sono caduto anch'io. Davanti alla televisione, immagini in digitale di bare avvolte dentro al tricolore che scendono da un aereo proveniente da quell'inferno di sabbia dell'Afghanistan. Ed una lacrima scende, mi ricorda che sono vivo. E solo per un mistero di Dio in quell'inferno non ci sono finito anch'io. Per ogni uomo perso, vestito da soldato, giocato dalla storia, prodotto e consumato. Per ogni uomo in guerra, con la sua parte oscura, io canto la tristezza, il vuoto e la paura. Ed una lacrima scende, mi ricorda che sono vivo. E solo per un mistero di Dio in qualche guerra non ci sono mai stato anch'io. Si sta come d'autunno, sugli alberi le foglie.